Scuola in controluce. Apriamo questa puntata con una domanda. Hanno ancora senso nella nostra scuola ruolo e figura dei rappresentanti di classe? Vi facciamo questa domanda perché 5 giorni fa è stata approvata in Commissione Cultura della Camera la riforma degli organi collegiali. Ora un passaggio veloce al Senato e sarà legge. Porta ancora il nome di chi l'aveva proposta, Valentina Prea, PDL, ora assessore regionale lombardo, anche se il testo durante il percorso si è molto modificato. Ed è anche perché la cosiddetta legge Prea venga modificata che hanno protestato venerdì gli studenti nelle piazze. Non modificata, deve essere cancellata perché distrugge la democrazia nelle scuole, rende di fatto la democrazia un optional, e questo significa che non c'è democrazia, privatizza di fatto la scuola facendo entrare i privati nei consigli nei nuovi consigli dell'autonomia. Le scuole diventano un tipo di fondazione che i privati possono sponsorizzarle e quindi, non so, ottengono dei diritti sulla nostra scuola che non dovrebbe essere così. Praticamente è una legge che ha deciso di introdurre un membro esterno privato nella scuola. In pratica questo membro esterno finanzierebbe la scuola e la scuola verrebbe venduta a questo membro esterno che sarebbe un'azienda o un'industria e le scuole pubbliche, ovviamente quelle più povere, non avrebbero più diritti perché non sarebbero finanziate da nessuno, perché questo elemento non avrebbe alcun guadagno. Voi sapete che cos'è la legge Aprea? Tutta figura, andiamo. Abbiamo sentito le idee, a volte anche un po' confuse, degli studenti nelle voci raccolte da Valeria De Rosa venerdì durante la manifestazione. Allora, salutiamo la nostra ospite di oggi, Manuela Ghizzoni, presidente della Commissione Cultura della Camera. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, perché mettere mano intanto agli organi collegiali? Cos'è che non andava? Non andava, nel senso che la scuola al momento è governata da una legge, da organi collegiali che hanno 35 anni. Nel frattempo la scuola ha fatto molto, è molto cambiata e soprattutto è intervenuta l'autonomia scolastica e quindi occorre, a nostro avviso, armonizzare quello che è il sistema di governo della scuola a questa nuova specificità, l'autonomia della scuola che è sancita anche dalla Costituzione, all'articolo 117. Certo, e quindi insomma andava rimesso mano a questa struttura che questo secondo credo che sì, certo, vada modernata, certo, rispetto a quelle che sono anche le nuove. È sempre nuove, positivo. Esatto. Allora, abbiamo sentito le voci degli studenti, riduce la democrazia nelle scuole questa riforma, privatizza le scuole, la scuola venduta ai membri esterni, insomma abbiamo sentito le loro voci, ma critiche arrivano anche da sindacati e dalle associazioni dei genitori. In particolare AGE Toscana, che è una di queste, un'associazione molto attiva, ha raccolto quasi 5.000 firme perché la legge venisse modificata e in parte ce l'hanno anche fatta. Insomma, sentiamo Rita Di Goro, che ne è la presidente, ci elenca cosa proprio non va, poi con l'onorevole Ghizzoni commentiamo queste critiche. Ma sicuramente noi vorremmo che il rappresentante di classe, che è stato un po' riacciuffato per i capelli grazie alle proteste di tanti genitori, non fosse poi messo lì a far niente, ma fosse coinvolto nella programmazione didattica che finora ha sempre avuto, invece ora con questa riforma viene a mancare. Poi dopo un'altra cosa che per noi è grave è che il Consiglio d'Istituto non possa lavorare sulle principali materie che, ricordiamolo, sono il piano dell'offerta formativa, bilancio, consuntivo, regolamento d'istituto e scelta dei membri del nucleo di autovalutazione. Tutte queste cose che sono le più importanti che fa il Consiglio d'Istituto e l'organo di indirizzo vengono meno perché non può fare nulla il Consiglio, ora Consiglio dell'Autonomia, se non c'è la proposta del preside. Allora vorremmo capire. Va bene perché insomma non tutti i presidi lavorano per il verso giusto, o comunque insomma ci deve essere la possibilità di un contraddittorio. Ma sicuramente l'organo di indirizzo dovrebbe essere libero, non dovrebbe essere vigilato. E poi il nome Consiglio dell'Autonomia, quando praticamente viene trattato come un minorenne, tutto sommato, insomma, è una delle cose, anche questo nome, questo cambiare nomi che non capiamo molto. Il collegio dei docenti diventa consiglio dei docenti, poi si fa solo una gran confusione con tutti questi nomi, non serve assolutamente a nulla. L'ultima cosa che a noi genitori interessa tantissimo è la formazione. Se finora gli organi collegiali non hanno funzionato come dovevano, è semplicemente perché i genitori arrivano lì e non sanno cosa devono fare. Non è che per caso le scuole non vogliono che i genitori sappiano quello che devono fare, così almeno se ne stanno zitti e buoni? Beh, insomma, i genitori che abbiamo formato in questi anni hanno dato abbastanza del filo da torcere alle scuole. Certo è che nel momento in cui le scuole hanno capito che i genitori possono essere una risorsa importante, hanno cambiato d'avviso. All'inizio hanno fatto molta frizione, poi invece ci si sono buttati quasi sopra su questi genitori, perché effettivamente di genitori validi ce ne sono. Poi ogni genitore è un professionista, ha qualcosa da dare, anche la casalinga sicuramente può insegnare a fare dolce o le marmellate, fa per dire, può dare un suo parere, la cosa più pregiata, su quello che deve essere l'offerta formativa per i propri figli. Manuela Ghizzoni, Presidente della Commissione Cultura della Camera. Allora, esaminiamo le tre critiche sostanziali che sono state rivolte da AGE Toscana a questa riforma. I rappresentanti di classe devono poter dire la loro sulla didattica. Ma i rappresentanti di classe potranno dirlo e lo diranno con una fase di scrittura insieme degli statuti, perché nessuno ha parlato finora delle voci che ho sentito della straordinaria opportunità che sarà data alle scuole, poiché avranno il proprio statuto, la propria regola con cui le componenti della scuola decideranno la vita della scuola, fermo restando naturalmente le norme nazionali, perché ho sentito anche qualcuno dire in questo modo voi aprite la chiamata diretta per esempio dei docenti. No, non è così, perché la legge nazionale lo vieta. Non lo consente. E poi arriverò anche sul tema dei privati nella scuola, perché mi sembra un tema molto caldo, ho ascoltato con molta attenzione gli studenti e vorrei dare una risposta. Ma vengo alle obiezioni dell'AGE Toscana, che conosco, le firme sono state recapitate anche alla mia personale attenzione, e noi abbiamo fatto tesoro del lavoro dell'AGE Toscana, come di molte altre associazioni, CGD, insomma, che ci hanno fatto avere suggerimenti, oltre naturalmente alle loro obiezioni al testo originario, certo, di questa legge, che è molto molto cambiato, e ci tengo a dirlo. Beh, insomma, il protagonista non è vero, è stato riacciuffato, cioè il consiglio di classe è formato dai docenti e dalle rappresentanze dei genitori e degli studenti, e quindi svolgeranno quel lavoro che hanno svolto prezioso fino ad ora nel limite che loro si daranno negli statuti. C'è bisogno di una grande stagione di partecipazione, ma anche di protagonismo di queste. L'altra critica importante, troppo potere, certo, troppo potere ai presidi. Mi viene in mente tra l'altro un caso proprio di giornata, no? Il preside di Ascoli Piceno, dell'Istituto Tecnico di Ascoli Piceno, che ha rimesso in aula magna una tela con l'immagine di Mussolini. Hanno troppo potere, ne avranno di più, e allora, nessuno potrà condizionarli e fermarli, no, allora, anche di fronte a cose strane, tipo quella appunto del ritratto di Mussolini. Una cosa sanzionabile come quella di oggi, e infatti c'è stata una sollevazione sociale, perché le scuole sono poi organismi sociali che stanno nelle loro comunità. Il dirigente scolastico interviene e dà funzioni ovviamente di funzioni gestionali all'interno dell'attuale legge, che è quella nella quale agisce anche oggi, e noi per tutelare anche il lavoro che abbiamo fatto siamo andati a modificare anche la legge che dà le indicazioni al dirigente, dicendo che la sua attività naturalmente deve avvenire nel rispetto di quelli che sono adesso il Consiglio dell'Autonomia e il Consiglio dei Docenti. Quindi non c'è, è una vero, cosa che mi meraviglia, che ho sentito dall'esponente dell'AGE Toscana, cioè di avere inventato un Consiglio dell'Autonomia che di fatto è messo sotto condizionato dal dirigente. Ma io invito però i telespettatori, me ne rendo conto, chi ci ascolta, a leggere la nostra legge, che dice che il Consiglio dell'Autonomia adotta il piano dell'offerta formativa, approva il programma annuale, che sarebbe il bilancio della scuola, approva il conto consuntivo, delibera il regolamento di istituto e via discorrendo. Cioè non è vero, non corrisponde a verità che sia stata sottratta, che sia stata sottratta al Consiglio dell'Autonomia le funzioni fondamentali. Grazie. Grazie mille, grazie a Manuela Ghizzoni, Presidente della Commissione Cultura della Camera. E invece noi adesso sentiamo un papà che si è avvicinato quest'anno al mondo della scuola, perché suo figlio fa la prima elementare. Parliamo di Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Gli abbiamo chiesto se anche lui ha la sensazione che le scuole in qualche caso vedano con fastidio la partecipazione dei genitori. credo che sia necessario avere una fiducia nel corpo insegnanti, nel corpo dei docenti. Poi nella scuola dove va mio figlio ci sono stati degli incontri di preparazione dove il corpo insegnanti con la direttrice spiegava un po' il metodo e i criteri. Quindi devo dire no, che non sentiamo questa cosa e soprattutto evitiamolo di mettere troppo il becco, ecco, no? Perché forse... Però è giusto anche che i genitori, insomma, sappiano, conoscano e soprattutto partecipino. Secondo noi sì, il tipo di scelta che abbiamo fatto noi per la scuola, siccome prevede molto, no, il coinvolgimento degli insegnanti, ma soprattutto a livello di informazione, non, no? E quindi sì, io sono convinto che i genitori debbano sapere, devono seguire stando sullo sfondo magari o intervenire quando la scuola lo richiede, certo. Ecco, molti insegnanti accusano un po' i genitori dicendo o si impicciano troppo oppure si sentono troppo giudicati, sono troppo ansiosi, vengono qui e pensano che un 5 o un 4 da tal figlio metta in crisi anche tutto il loro, non so, il loro modello di educazione. È vero, io lo raccontavo, ho anche scritto su questa cosa che una volta, magari esagerando contrariamente, quando andavo io a scuola, l'insegnante, il professore aveva comunque ragione, no? Per cui quando tu tornavi a casa con una brutta nota o qualcosa, ti beccavi uno scappellotto, no? E questo significava che c'era una fiducia addirittura cieca verso il corpo insegnanti. Adesso è tutto modificato, addirittura quando uno arriva a casa col 4 si va dall'insegnante e dice ma come si permette, lei non sa chi è mio figlio, per cui si è un po' invertita questa rotta, andrebbe forse riequilibrato questo meccanismo, è vero. Trovate Scuola in Controluce su radio24.it e su Facebook. In chiusura vi ricordo anche che oggi sul Sole 24 Ore del lunedì trovate in omaggio la guida pratica al concorsone con la simulazione dei test che dovranno affrontare gli aspiranti prof. Domani alle 13.30 Italia in Controluce.